Letture di Radio 24. Per anni il cinema western ci ha trasportati con la fantasia in un luogo dove i ruoli erano ben definiti, buoni da una parte e cattivi dall'altra. Poi abbiamo imparato che il male non stava nelle persone, ma nelle guerre in sé. Il mito del West non deriva però da una falsificazione, scrive il professor Luigi Sampietro sul domenicale del Sole 24 Ore, ma nasce da una precisa e documentata formula narrativa. Si va verso il West, sullo schermo, correndo preferibilmente da destra a sinistra, in direzione ovest. La diligenza è inseguita dai banditi o dai pelli rosse. Sparano tutti, ma si capisce subito chi sono i nostri. Sono quelli che prendono la mira in primo piano, mentre gli G, i cattivi, inesorabilmente colpiti, volano dal cavallo in lontananza, come acrobati da circo, e lì restano, ignorati dalla macchina da presa. È in questo modo che al cinema, ai tempi delle scuole elementari, imparavamo i fondamenti dell'etica e dell'estetica. Non si estrae mai per primo la pistola e tantomeno si colpisce l'avversario alle spalle. Si tiene sempre fede alla parola data e la menzogna è un'offesa di carattere capitale. Inoltre, contrariamente alle raccomandazioni che ci hanno fatto a casa e a scuola, scopriamo che prendersi a pugni è cosa onorevole, anche perché è sicuro che vince sempre il migliore. È così in ogni tipo di duello. Ancora non conosciamo il termine, ordalia, ma si tratta di una regola che viene, niente meno, dal Padre Eterno. I cowboy, che si distinguono dai banditi perché non sono sporchi né malrasati come i messicani, per strada si comportano al pari dei gentiluomini dei film in costume. Quando incontrano una signora, si levano il cappello con un piccolo inchino. Le signore, lo si capisce subito, sono quelle che, a differenza delle altre donne, portano il cappellino. In un western, le donne, nubili o maritate che siano, sono le mogli e le figlie dei coloni. In caso di emergenza possono anche imbracciare il fucile, ma poiché compaiono quasi sempre in un interno o nello spazio di una fattoria, come se avessero altro da fare che andare a spasso, le vediamo sempre a capo scoperto. Di solito sono pettinate secondo la moda degli anni in cui è stato girato il film, e talvolta hanno addirittura i capelli sciolti sulle spalle, come le eroine dei dipinti pre-raffaelliti. Non dimentichiamo inoltre che il cappellino è un importante indizio. Le signore che lo portano, con l'eccezione forse di Grace Kelly, in Mezzogiorno di fuoco, non sono quasi mai le protagoniste. Lo sono invece, protagoniste, le ragazze che cantano nei saloon. Indossano una guêpière di colore scarlatto e in genere vengono dall'est. Si capisce subito che sono ragazze per bene e da grandi, magari dopo il ginnasio, non ci dispiacerebbe averne qualcuna come fidanzata. Sono leali e di buon cuore, e nei momenti difficili aiutano sempre i buoni contro i cattivi. Se l'eroe del film viene ferito, fanno anche le infermiere. Se si scopre all'improvviso che una donna è raggiunta dalle doglie, sono le prime a mettere l'acqua a scaldare sul fuoco. Sono questi alcuni dei fili che compongono l'ordito delle mille trame che in quei felici anni difficili disegnano ai nostri occhi un motivo costante: guardie e ladri, cacciatori e cacciati, achei e troiani, cristiani e mori, terrestri e alieni, compagini contrapposte che si combattono con una lealtà che noi cerchiamo di imitare. Certo, ci sono i buoni e i cattivi, ma è sottinteso che si tratta di una convenzione, un gioco delle parti, la nostra squadra contro la vostra, come nelle partite di pallone. L'epica dei nostri sogni, quella dei film, è un universo simbolico in cui la guerra è raccontata attraverso le gesta dei singoli individui. Le stragi non sono operazioni di massa, ma imprese stupefacenti di un singolo eroe: Ercole, Achille, Sansone e poi anche Maciste, che stupisce più per lo strepitoso valore che per i lutti che infligge. Il racconto del Rapsodo, mentre costui stritola gli avversari, non induce infatti sul sangue e sugli orrori del combattimento, come farà invece di lì a pochi anni la macchina da presa che ricostruirà lo sbarco in Normandia del soldato Ryan. Arriva presto il momento in cui il male non viene più indicato nella singola figura del traditore, bensì nell'atto stesso di combattere. Il male diventa la guerra in sé. Il solo uso della forza, che prende dunque il nome di violenza. Ormai maggiorenni, leggiamo dei massacri perpetrati dai bianchi contro i nativi. La leggenda del West abbandona le pagine dei romanzi che l'avevano definita, sia pure lasciando sullo sfondo la dimensione biblica dell'esodo dei pacifici pionieri, e finisce sul banco degli imputati, accusata di spergiuro e di falso. Gli storiografi confrontano i documenti, i fatti, con la formula di racconti che si tramandano da secoli. Capeggiati da Eric Hobsbawm, ci informano che quello che si dice delle cose passate è quasi sempre una balla, il che può essere verissimo, e se fossimo competenti di storia saremmo anche pronti a testimoniarlo. Ma per quanto riguarda la letteratura, si tratta della scoperta dell'acqua calda. Che c'entrano infatti in tutto questo le opere di immaginazione, le storie degli dei e degli eroi, della ricerca del vello d'oro o dell'Eldorado, delle cavalcate nelle praterie e della strenua resistenza contro tutte le avversità. Il mito del West è tale non per una deliberata falsificazione di qualcuno, ma perché i registi ci hanno fatto sopra fior di film, adattando una formula narrativa e un codice di comportamento, improntato alle nozioni di cortesia e di cavalleria, che nell'immediato erano quelli dei romanzi di Walter Scott, trapiantati in America da un libro oggi dimenticato, e però di fondamentale importanza, qual è Il Virginiano di Owen Wister. Leggere per credere. Ma prima che arrivino gli sceriffi del Dipartimento di Storia con le pistole spianate, annuncio che baserò la difesa di queste mie convinzioni sulle idee di quel gigante della critica che è stato Northrop Frye, del quale peraltro è appena ricorso il centenario della nascita e a cui per ogni letterato è doveroso rendere omaggio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Sampietro, Un bel sogno chiamato West, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Si intitola Addio, il nuovo romanzo di Aurelio Picca, pubblicato dalla Bompiani. Una storia dove le vicende dei personaggi si alternano alla rievocazione di fatti di cronaca che hanno cambiato l'Italia, facendola uscire dagli anni 60 e dall'età dell'innocenza, come il rapimento e l'uccisione del piccolo Ermanno Lavorini, capostipite di quella che sarebbe stata una lunga stagione di sequestri, ma anche esempio di quanto il potere mediatico riesca a distorcere la realtà. Il pomeriggio che sparì, Ermanno indossava un paio di calzoni corti color ruggine, un maglione bianco e un impermeabile sempre dello stesso colore. Era un signorino. A pranzo la mamma Lucia gli aveva preparato un risotto alla milanese. Suo padre gli aveva dato un pizzicotto dicendogli: «Alla mamma prima chiedi il piatto che vuoi tu e poi non lo mangi. Se non finisci la bicicletta rimane nello sgabuzzino. La passeggiata te la sogni». Ermanno era cocciuto, non rispose. La bici, nuova, rossa fiammante, doveva provarla a ogni costo. Il ragazzo sapeva bene che suo padre Armando non scherzava. Se si intestardiva, peggio di lui, andava a finire che al negozio, per la riapertura delle 15, ci mandava Marinella, per piazzarsi in casa ad aspettare che finisse di fare i compiti. Il riso non gli andava giù, ma con due cucchiaiate se lo ingoiò lo stesso senza replicare. Si scopre dalla fotografia della cresima e comunione, scattata forse nel 1967, quale fosse il carattere di Ermanno. Si appoggia con le spalle a un pilone del porto e si allarga le braccia su una corda arrotolata. I capelli sono leggermente mossi. Si intravede un accenno di riga portata a sinistra. In realtà non è pettinato. I capelli gli si tengono da soli seguendo la piega naturale. Gli occhi di Ermanno sono vispi. Non si nota accenno di inquietudine. Non sorride. Si è concesso per un clic e via. Indossa una giacchina a tre bottoni, tutti abbottonati. Avendo le braccia tirate indietro e appoggiate a una corda o a un pneumatico, la giacca gli si alza sul primo bottone e gli tira sotto le ascelle, scoprendogli i polsini della camicia che indossa con una cravatta. Ha un atteggiamento sciolto e sicuro da figlio di benestanti. Non si preoccupa che la giacca si sciupi o si macchi, stando attaccato al pilone. Quel dopo pranzo, Ermanno montò sulla sua bicicletta rossa e prese a pedalare per via Fratti. La madre lo vide allontanarsi. Erano d'accordo che sarebbe tornato alle 15:30. C'erano i compiti da fare. A scuola Ermanno era disciplinato e sul profitto non c'era nulla da ridire. Per studiare non aveva bisogno di pizzicotti. Ai compiti ci teneva, anche se alla mamma non raccontava di raggiungere la Pineta in bicicletta, tanto sapeva calcolare bene il tempo del ritorno. Era difficile che sgarrasse. Intanto il papà e la sorella, Marinella, aprivano il negozio. Marinella stava alla cassa con il telefono accanto. Il padre Armando era dietro il banco, sotto gli scaffali con le stoffe. Era lui che si occupava della vendita e dei clienti. «Pronto, mamma, cosa c'è?» rispose Marinella alla signora Lucia verso le 4. La donna era seccata che oggi, a pranzo, Ermanno, dopo aver fatto storie con il risotto, ora tardava anche per i compiti. Quando arrivarono le 17 ed Ermanno non era ancora rientrato, anche Armando uscì dal negozio per cercare suo figlio. Il ritardo era troppo. Che cosa era successo? Era caduto dalla bicicletta? Di quanto si era allontanato da Via Fratti? Fino a quell'ora era stata la signora Lucia a telefonare al marito, ma alle 17:45 fu lei a riceverne una e non proveniva dal negozio. Alzò la cornetta e ascoltò senza aprire bocca. Poi incominciò a urlare. Dall'altro capo del filo qualcuno le aveva comunicato che Ermanno Lavorini sarebbe rientrato in casa solo se i genitori avessero pagato un riscatto di 15 milioni. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del romanzo Addio di Aurelio Picca. Bompiani Editore, 182 pagine, 16 euro. Il mese scorso Beppe Grillo aveva destato non poche perplessità con le sue dichiarazioni su Siria e Iran, soprattutto perché aveva citato il suocero e il cugino come fonti di informazione in politica estera. Ora il comico genovese torna al centro delle polemiche per le offese rivolte a Rosy Bindi. Dopo aver insultato con battutacce da caserma Rosy Bindi e preso posizione favorevole ai matrimoni gay, Beppe Grillo sta chiedendo al suo guru, il suocero iraniano di cui ha parlato in un'intervista, come sono trattati gli omosessuali nella Teheran degli Ayatollah, dal suddetto suocero molto amati. Non si sa se problemi nella comunicazione con un paese autoritario e oppressivo gli vieteranno di sapere dal suocero a quali discriminazioni e persecuzioni i gay siano sottoposti in Iran. Qualcuno nella blogosfera potrebbe avvertire Grillo che il suocero non gli ha detto tutta la verità. Avete ascoltato la lettura di un estratto dall'articolo di Pierluigi Battista «Se H e Pannella diffondono il virus spirituale del buddismo» dal Corriere della Sera del 17 luglio.